good is melody. What good... Ormai è quasi banale, ma succede ancora. Chi voglia dimostrare la superiorità morale del cristianesimo sulle altre religioni, nella vana ricerca di un'oggettività non trova di meglio che citare il gran comandamento. L'ultimo di cui sono a conoscenza era Alberoni, che su questo argomento nel suo valore torna almeno 3 volte illudendosi di aver dimostrato qualche cosa. Ora, anche tralasciando il fatto che le comparazioni fra religioni che abbiano come scopo la ricerca della dottrina più giusta o più ragionevole sono operazioni indegne per qualsiasi studioso, al più sono buone per una propaganda di bassa lega, vale la pena di osservare che affermazioni come quella citata hanno valore soltanto come ipotesi di individuazione di una linea di tendenza. Nella pratica quotidiana, trovare qualche cristiano che ama il suo prossimo come se stesso è abbastanza raro, e a pensarci non è poi un gran male, perché amare se stessi è meno facile di quello che si crede. Il bimbo, infatti, detesta la sua debolezza e a volte anche la sua dipendenza dagli adulti. L'adolescente odia i suoi capelli che cadono come spaghetti o che si arricciano pervicacemente, i suoi zigomi troppo sporgenti o i suoi fianchi troppo pronunciati, i suoi brufoli e il colore dei suoi occhi. L'adulto non sopporta la sua lentezza nel comprendere e nel reagire alle situazioni, il suo proprio odore che nasconde con profumi e deodoranti, la sua incapacità a guadagnare quanto occorre a realizzare tutti i suoi progetti, i dolorini che gli preannunciano la vecchiaia e la barba che a mezzogiorno è già cresciuta abbastanza da modificare l'immagine che ha di sé. Dell'anziano è meglio non dire. Eppure, in questo quadro così poco edificante, si insiste nel diffondere questa versione abbreviata di Matteo 22:37, che è poi ripresa dal Deuteronomio 6:5 e dal Levitico 19:18, senza preoccuparsi delle possibili conseguenze. Già, perché in obbedienza al comandamento, qualche cristiano particolarmente depresso potrebbe, per esempio, decidere di suicidarsi con una bomba nucleare da 1000 megaton. Comunque, in condizioni meno disperate, il limite stabilito dal comandamento è fittizio ed ognuno rimane libero di operare le scelte più riprovevoli, giustificandole semplicemente col rapporto che ha con se stesso. Così al tradizionale preferirei morire che si può aggiungere un ben motivato e altrettanto diffuso preferirei vederti morto che, con le conseguenze che si possono immaginare e che purtroppo a volte si possono anche constatare. Certo, visto in questi termini, l'insegnamento biblico presenta più di una contraddizione, ma almeno in questo caso non dipende dal testo, bensì dalla sua lettura. Il testo recita: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua e con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come se stesso. Non mi pare necessario entrare in complicati studi teologici per capire che tanto il te stesso quanto il prossimo sono elementi di seconda grandezza e che il discorso è tutto incentrato sulla prima affermazione. Nei fatti lo hanno capito quasi tutti, a cominciare dai depressi che si suicidano single, per finire con quanti, pur non nutrendo per se stessi un amore o una stima particolare, riescono benissimo ad amare altri e ad accettarli come sono. Certo, rimane il problema di cosa intendere e categorizzare con la dizione Signore Dio tuo, ma è un argomento un po' troppo complesso per affrontarlo in questa sede.